sono stati soprattutto gli alimentari e i prodotti energetici. Come sappiamo, a livello internazionale c'è una forte spinta sulle materie prime e in particolare sul petrolio, ma anche sui prodotti agricoli. E gli aumenti sono stati fortissimi nel corso degli ultimi mesi. Per dare un'idea, nei primi giorni del 2011 l'indice aggregato delle materie prime non energetiche, quindi a parte il petrolio, era aumentato del 29% rispetto a un anno prima, e anche per il prezzo del petrolio è aumentato quasi del 24%. Ecco, stiamo osservando l'impatto di questi aumenti internazionali sui prezzi interni. Non si è fatto sentire però l'effetto saldi a gennaio, perché insomma quelli di solito pesano. Noi calcoliamo, o meglio, senza l'effetto saldi avremmo avuto un'inflazione ancora più alta? Noi calcoliamo l'effetto saldi nell'indice armonizzato, e quindi al contrario di quello nazionale non ha le riduzioni temporanee di prezzo. In realtà quello che vediamo è che l'inflazione core, cioè quella di fondo al netto di energia e di prodotti alimentari, è stabile da vari mesi. Questo non vuol dire che nei prossimi mesi anche altri prezzi non possano aumentare, ma siamo ancora nella fase iniziale dell'impulso proveniente dai mercati internazionali. E tra l'altro voi segnalate come vi sia stata a gennaio una vera e propria impennata nel prezzo della verdura fresca, più 12% addirittura rispetto a dicembre, più 11,7% rispetto a gennaio del 2010. E in questo modo ci ricolleghiamo col tema di apertura, cioè le tensioni sui mercati delle materie prime alimentari. È a questo imputabile? Perché più 12 su dicembre è tanto. Sì, noi abbiamo anche a partire da quest'anno, secondo le linee guida di Eurostat, cambiato parzialmente la metodologia per ciò che riguarda i prodotti cosiddetti stagionali, e quindi c'è un po' più di volatilità nell'indice dei prezzi al consumo rispetto al passato. Questo aumento forte delle verdure, ad esempio, è in parte legato a fenomeni climatici e si è verificato anche in altri paesi.